Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Era un po' di tempo che non incontravo una mia ospite d'affezione. È la donna che passava gran parte del suo tempo alla ricerca disperata, attraverso ausili informatici, dell'uomo della sua vita. Questa donna si avvicendava volta dopo volta in incontri sfortunati, in incontri disastrati, rendendosi conto che l'essere preda in una selva oscura costellata di solo cacciatori non era poi la soluzione più comoda per risolvere il suo problema. Dopo un'infinità di sfortunati eventi in cui ella sempre tornava a casa leccandosi le ferite del suo cuore e vilipeso e sanguinante per essere stata considerata soltanto un oggetto di piacere sessuale e non una sorta di regina eletta come compagna per la vita, decise, anzi fece solenne promessa di fronte a me, che mai più avrebbe ricorso a quel sistema per cercare un uomo che la considerasse donna degna di passare la vita accanto a lui. Beh, questo proposito l'ha sicuramente resa felice, e quindi adesso che me la vedo davanti, con l'aria non certo soddisfatta, non certo di donna pagata, mi viene spontaneo di domandarle se veramente ella ebbe modo di tener fede al voto che solennemente mi fece davanti al controllore durante uno dei nostri viaggi. Ci sei ricaduta ancora una volta? Sì, sono veramente, guarda, sono decisamente una persona sprovveduta. Ma mi hai detto che avresti smesso? Io infatti stavo smettendo, era il mio ultimo periodo prima di uscire, e sono stata adescata dal peggiorissimo. Tu avevi detto non avresti più frequentato i siti di incontri perché era come una droga, basta, ne uscivi, ormai potevi fare una vita normale anche senza quella roba. Adesso voglio fare una vita normale, perché dopo questo peggiorissimo tipo che ho incontrato, adesso ti giuro proprio basta, ma proprio basta. Spiega bene com'è successo, perché l'ultima dose è stata quella letale, secondo me. Sì, sto morendo. In realtà lui è stato uno... l'ultima persona che mi ha contattata prima che io uscissi da questo labirinto tremendo, mi ha contattata con delle parole, delle situazioni, delle promesse molto, molto carine, molto simpatiche, molto educate, ed io ci ho creduto, anche perché ti ho sempre detto che mi sto relazionando con persone adulte, e quindi mi aspetto che dall'altra parte ci sia una persona adulta, una persona sincera, quando invece sono sempre e continuamente delusa. Ma cosa ti faceva pensare che lui fosse sincero? Ma il suo modo di fare, il suo modo di agire, di porsi. Ma tu, quando io, cioè, vedeva la mia titubanza nell'incontrarlo, piuttosto che nel credergli, lui rimaneva quasi scandalizzato. Tu hai fatto la sdegnosa all'inizio, no? Chiaro. Ma sì, dai, perché insomma sono veramente schifata, no? Quindi voglio dire, ci vado con i piedi di piombo, e lui quindi mi rassicurava dicendo: ma accidenti, ma che tipo di persone hai frequentato? Ma che uomini hai incontrato? Non siamo tutti uguali, io assolutamente no, io assolutamente sono una persona libera, sono una persona sincera, sono una persona seria, altrimenti non potrei fare il lavoro che faccio, altrimenti non starei qui ad incontrare te, e bla bla bla. Che lavoro bla, bla, faceva? Bla. Che lavoro faceva? Ma è un libro professionista, sono un vuol dire tutto. anche uno che va a caccia di topi è un libro professionista. Sì, vabbè, poi io so ovviamente che tipo di lavoro lui fa, è proprio per questo che poi l'ho, vabbè, l'ho ti dava fiducia. Vabbè, insomma, alla fine, guarda, per fartela breve, lui addirittura mi ha dato un nome falso, quindi veramente abbiamo toccato proprio. No, spiegami tutta la storia con dovizia di particolari, voglio capire. I particolari, dunque, ci siamo visti qualche volta, ci siamo visti una volta per un aperitivo e poi la volta dopo per una cena, e addirittura nel corso della cena io ho lanciato il fatto di, dico, dai, facciamo un gioco della sincerità, anche perché ci dobbiamo conoscere, quindi ci poniamo delle domande reciprocamente alle quali ovviamente dovremmo rispondere in un modo sincero. Ma certo che sì, ma che domande mi fai? Ovvio che ci rispondiamo in un modo sincero. E quindi tra le altre domande, tra le tante domande che gli ho posto, è stata fatta quella del ma tu sei single? Perché dimmelo, guarda, perché, cioè, voglio dire, alla nostra età, se tu, anche se sei una persona comunque non libera, sposata piuttosto che accompagnata, via dicendo, dimmelo, che poi sono io a decidere che cosa fare, no? Della mia vita e della mia e di me stessa. No, assolutamente, ma io non sarei qua. Cioè, vabbè, tutte queste storie. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. E lui a te cosa ha domandato? Scusa, lui a te cosa ha domandato? A lui ha domandato che cosa io volevo nel rapporto, che cosa stavo cercando. E lui stava sulla mia stessa linea d'onda quando io gli dicevo che comunque io stavo cercando una situazione comunque da condividere e da provare, perché poi non ha detto che poi si raggiunga, no, un fine idilliaco, una meta stabilita, però comunque ci si prova. E lui sì, assolutamente, anch'io, perché la condivisione è quella che comunque ci manca, la nostra età, avere una persona sulla quale porre fiducia, sulla quale c'è, che la chiami al telefono, la vai a trovare, si passa del tempo insieme. Ovviamente la meta ambita da tutte le persone che a questa età rimangono sole, quindi va bene, quindi siamo sulla stessa lunghezza d'onda e quindi ci vediamo, ci sentiamo. E poi lui ha cominciato a nascondersi, a paventarsi ieri delle bugie assurde, ti assicuro assurde, addirittura grottesche, perché nel corso di un mese e mezzo che ci siamo contattati attraverso WhatsApp, telefonate, via scorrendo, lui, penso che gli siano morte tipo 3-4 persone in famiglia, oppure... Beh, sfortunato. Sfortunato? Ma no. Guarda, io direi, guarda, mi viene l'epiteto da affibbiargli, e direi che è merda, concedimelo questo termine, ma una merda un po' particolare, dove non osano neanche le mosche, perché è talmente tanto il puzzo che anche loro rimangono inorridite, che, cioè, mascherarsi dietro alle morti, secondo me non c'è niente di più grottesco. Cioè, ti dava anche particolari del morto, come era successo e tutto? Ma certo, perché la mamma del parente lontano stava male, poi stava in coma, e poi era morta, e poi il funerale, e poi addirittura il telefono non mi risponde perché stava al rosario, non so bene che cosa significa. Cos'ha, la preghiera, le Ave Marie, il Pater Nostro, queste sì, cose? Vabbè, sì, ma alle 11:30 di sera. E beh, si fanno di sera, capito. Ma di che giorni moriva questa gente? Ah, ovviamente weekend, venerdì, sabato, domenica, c'erano questi episodi tremendi, grotteschi. Pensa che caso. Ma pensa un po', che fatalità allucinante. Quindi, cioè, nel corso di un mese e mezzo, te l'ho detto, sono morte tipo 3 persone. E poi io ho scoperto che lui non era quello che in realtà diceva, facendo delle indagini un po', sai, girando un po' in rete, e ho scoperto che aveva mantenuto il suo cognome vero, ma aveva celato, quindi nascosto il suo, cioè il cognome era vero, ma il nome no. Quindi è uscito alla ribalta. A questo punto l'ho cercato su Facebook, l'ho trovato. E trovandolo su Facebook mi sono resa conto che lui aveva iniziato una relazione all'inizio del mese e dopo qualche settimana aveva contattato me. Quindi questa è una cosa, secondo me, allucinante. Ti giuro che la donna che sta dall'altra parte e sta a braccetto a questo dottor Jekyll mi fa una pena incredibile. Vabbè, era un amatore multiplo. Sì, ma, cioè, seriale. Una persona che si fidanza e poi contatta un'altra persona, per me, cioè, io ho conosciuto... Ma io non trovo tanto grave che abbia amori multipli, sono fatti suoi, e che poi lo metta su Facebook senza immaginare che poi alla fine tu l'avresti rintracciato. Questo mi fa strano. Ma l'ho rintracciato perché io ho scoperto il suo nome vero, perché fino a quando lui mi aveva dato un nome falso non c'era su Facebook. Sì, però tu capisci che cercando gli amici se uno ci perde tempo ritrova tutto, basta una minima traccia per risalire una persona. È un ingenuo. Sì, ci sei arrivata tu, che non è che sei Bill Gates, che quindi sono una volpe, no, per carità, ci mancherebbe. Quindi, no, ma dire, però non è che ci vuole tanto, basta metterci un po' di tempo, si ritrova, capito? Non servono doti informatiche. Questo denota anche la sua stupidità, oltre che la sua arroganza nel credere che io sono stupida. Ma secondo me ce ne stanno altre, mica ci siete solo voi due, figurati. Ma ci mancherebbe. Per carità, infatti, come ha adescato me, sicuramente quante altre, magari arrogando sempre ovviamente lo stesso tipo di bugie, perché sennò poi fai confusione. Ma lui è sposato alla fine, che tu sappia? Non ne ho idea. Cioè, oddio, è il tipo che potrebbe essere anche sposato, da come si muove. Beh, oddio, mettendo questa cosa su Facebook non credo che lo sia, perché altrimenti non si sarebbe che lui è veramente quello che poi ho scoperto che poi è, anche nell'ambito lavorativo, quindi ho scoperto che è lui, e quindi non può mettere su una pagina Facebook il suo inizio relazione quando poi in realtà c'ha una storia. Ma allora a fine settimana stava con la fidanzata? Credo di sì, anche perché al telefono non mi rispondeva, perché arrogava delle bugie, che ne so, dormo piuttosto che sto rosato. Beh, quella era una storia un po' più impegnativa, perché si impegnava ai fine settimana, te eri quella durante la settimana. Quando vi vedevate? I pomeriggi, la mattina? Ma veramente ci siamo visti soltanto 3 volte, non è che ci siamo visti poi così tanto, perché in un mese e mezzo, ripeto, gli sono successe di tutti i colori, sembrava Paperino. Vabbè, però mese e mezzo, 3 volte, una volta a settimana, è una bella media, non è poco, eh. In un mese e mezzo 3 volte. Una volta ogni 2 settimane. Vabbè, gli amanti si vedono così, non è che si vedono tutti i giorni. Sì. Ma te ti eri innamorata, dai? Ma no, che non mi ero innamorata. Un po' sì. Ma no, dai, per innamorarsi di una persona la devi frequentare, la devi conoscere, devi sentire il profumo. Beh, alla fine gliel'hai detto che l'hai scoperto? Sì, perché io ho messo un annuncio, un messaggio su Facebook e poi anche su WhatsApp. E lui come ha risposto? Luca da buon vigliacco. Niente. Ah, tu gliel'hai scritto solo, t'ho smascherato, lui non ti ha più risposto. No, non mi ha più risposto, giustamente, come te l'ho detto, da buon vigliacco e da buona. Tabannato, magari, tabannato da tutti i profili, così. Sì, ovviamente sì, ovviamente sì. Quindi diciamo, il tuo proposito di smetterla con la tua droga non finirà più, continuerai. Sì, che no, ti assicuro che smette, basta, mi sto disintossicando. Però adesso il tempo di creare dei danni a lui, un pochino devi ancora farne uso. Ma sai che adesso ancora sono un po' incavolata, no? Poi magari questa rabbia mi sbollisce, poi non ci penso più. Guarda, io faccio una scommessa, ti offro il caffè al baretto dello scompartimento numero 6, se la prossima volta tu non mi dirai che ancora ci sei ricaduta, sei rifatta una bella dose di quella robettina che ti piace. Guarda, tanto. Guarda, che il caffè te lo pagherò io, ok? Vedremo, chiedo. Alla prossima, ciao! Ok, ciao, buona giornata. È singolare osservare nel mio lungo viaggiare attraverso una macchina che per prima rappresentò il segno tangibile della tecnologia che invadeva gli spazi, un treno che corre sulla strada ferrata, in fondo è il viatico di tutti i miei pensieri. Beh, dalla testimonianza della nostra amica, che ricorre anche lei a una sorta di strumento meccanico per favorire il suo desiderio di passione e di accompagnamento maschile, mi viene da pensare che se esasperiamo questo intervento della tecnica, e mi sta bene che lo si esasperi, non sono affatto un nostalgico luddista, uno che considera la tecnica qualcosa di alieno alla nostra umanità, beh, se invece noi esasperiamo questo rapporto, arriviamo al paradosso dell'ordigno che ho da poco visto in azione, ma soltanto in un video, non preoccupatevi, su una promozione che c'era su YouTube, che è una sorta di acceleratore di fantasie erotiche applicabile alla parte innominabile e con un collegamento Bluetooth darebbe suggerimenti al maschio inesperto di come rendere felice la sua compagna. La maniera migliore per far passare definitivamente l'estro sessuale è assimilare l'accoppiamento a una seduta di fitness. Inutile girarci intorno, questo è lo scopo per cui ha lavorato il team di ingegneri californiani che ha messo a punto il primo sex toy wearable, come pomposamente viene definito, gli altri invece non si indossano, no, si usano come soprammobile. L'oggetto sarà in commercio nel giugno 2016, al momento è oggetto di una raccolta fondi per la commercializzazione. Nel sito è anche presentato lo staff dei progettisti e le specifiche tecniche del dispositivo. La forma si dice ispirata alla corolla del tulipano, che pare sia particolarmente ergonomica. Il marchingegno Lovely è una sintesi tra il classico vibranello, un fitness tracker e quelle app contapassi che si trovano già installate di default nello smartphone e che usano solo i fissati per la forma fisica. L'attrezzo in lattice viene indossato dal maschietto e, oltre la classica funzione vibrante, è collegato via Bluetooth allo smartphone e, grazie a un'apposita app, è in grado di fornire utilissime informazioni che la coppia può agevolmente seguire mentre fa l'amore. Segnala la velocità attraverso cui si opera, registra il numero e l'intensità delle spinte della foga amorosa e aggiorna a tempo reale quale sia il ritmo giusto per bruciare l'esatto numero di calorie, quelle cioè che sono state programmate quando è stato impostato l'esercizio. Naturalmente l'applicazione suggerisce la maniera più efficace per tenersi in forma, scegliendo la posizione migliore per le esigenze della coppia, attingendo a un menu Kama Sutra che comprende ben 120 differenti varianti sessuali. Il particolare più inquietante è che il sistema Lovely memorizza ogni performance e la traduce in una serie di grafici dove è misurato il livello della prestazione, i tempi, le calorie bruciate. Inoltre il software elabora i dati e suggerisce le posizioni successive, in ragione non del desiderio e delle fantasie degli amanti, ma ben più razionalmente in nome dell'adipe di cui, facendo sesso, potranno liberarsi. Nella triste circostanza della fine di un rapporto, in luogo dei regali, delle foto, delle lettere che mamme e nonne riponevano negli scrigni degli struggenti ricordi, si dovrà oggi pretendere la restituzione della scheda SD dove sono stati memorizzati i dati sensibili di tante ore di salutare fatica erotica. Sarà quindi necessario aggiungere un nuovo campo al database dei perduti amori di una vita che con Lovely potremo ricordare anche in ragione dei chili perduti. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Non poteva mancare in questa giornata dedicata alle derive sensuali la passeggera Rosa Confetto, che rincontro a distanza di un paio di settimane, abbigliata alla stessa maniera. Non che ella metta sempre gli stessi vestiti, ha una sorta di profumo di fragola e di bagnoschiuma ai frutti di bosco che aleggia attorno a lei, è donna pulitissima, dal nitore inoppugnabile. Ma ella veste come fosse una divisa di abiti rosa, e rosa dalla punta delle scarpe ai capelli tinti di rosa, è rosa il cappello, è rosa il vestito, rosa l'ombrello, è rosa la copertina del libro che sfoglia, è rosa la montatura dei suoi occhiali, insomma, ella galleggia in una nuvola rosa. Fammi un esempio concreto di possibile viaggiatore, compagno di scompartimento. Come lo vorresti, come ti è capitato di averlo? Come, allora, cosa c'è per le mani? Avuto non sono andati bene, evidentemente. Se no non stavamo qui a parlare, figurati. Ecco, e quindi non abbiamo fatto un bel viaggio, nel senso che da un certo punto ho tirato il freno d'emergenza e ho detto ok, puoi scendere, grazie. Qual è la media di chilometraggio? E dipende dalla situazione. Dipende sopra dalla o sotto situazione. I 3 mesi? Ah, sono arrivata anche 5 anni, eh. Ah, beh, 5 anni è impegnativo. Sì, ma avevo 20 anni. Ah, beh, quello che non conta. Poi però. Andando avanti si sono un attimo ristretti i tempi. Ma io penso le storie contino vanno dai 35 in poi. Prima sono fidanzamenti, storelline. 35, anche 40, diciamo. No? Grave. Sì, è vero, però è grave. Cioè, se io penso che magari i miei genitori a 27 anni erano già sposati, avevano già fatto figli, che vuol dire anche i miei? Vabbè, erano altre generazioni, altri mondi, figurati. Appunto. Per loro era una scelta per la vita in assoluto, non esisteva nemmeno alternativa emotiva, capito? Oggi, sai, trovi persone che o hanno già fatto un'infinità di scelte, quindi sono già al terzo cambio di treno, capito? Quarto cambio di treno. quindi sono, ahimè, passeggeri un pochino più scaltri, oppure sono passeggeri delusi, non ce la fanno più ad andare in treno, magari vorrebbero fermarsi alla stazione, che ne sai, boh, difficile, molto difficile. Ricordiamo ai signori viaggiatori che il treno va, non effettua servizio di prenotazione obbligatoria con posti assegnati. Diciamo che sostanzialmente il compagno di viaggio ideale credo che a 40 anni sia un uomo strutturato, non ci sono uomini strutturati. Eh sì, no? Ci sono, ma ce l'hanno altre donne, difficile. Vabbè, grazie, e chi ce l'hanno? No, ma poi alla fine voglio capire le donne che ce l'hanno, capisci? Poi magari sono quelle sciacquette, moschette, quelle FDL molto rigide, capito, che fanno le fighette tutto, e poi invece noi che magari siamo un po' più esuberanti, che abbiamo una struttura, abbiamo interessi eccetera, ci attacchiamo al solito tram. Ma questo accade anche per le donne, però dal punto di vista maschile pure, le donne migliori, noi abbiamo sempre l'impressione che siano con uomini sciatti. Ma come mai quella lì perde tempo con quel cretino, pensa te, potrebbe star con me, forse nel nostro senso di infinita illimitatezza delle nostre risorse. In realtà quelle che tu definisci sciacquetto, fighe di legno, sono persone che comunque danno delle sicurezze o danno della continuità nel tempo, che ne sai, non si può mai sapere quello che accade nell'ambito ristretto di una coppia, è difficilissimo definirlo. Tu hai di persone che tradiscono, che sembra che, diciamo, è assurdo, lascia quella perla di compagno o compagna per andare con quell'orrenda persona. Magari l'orrenda persona gli dà qualcosa che la compagna di una vita o il compagno splendido non è mai riuscito a dargli, che ne sai? A quello senz'altro. Quindi tu vai anche a razzolare, diciamo, nel pollaio altrui? E dai, su, confessa, mica. Confessiamo? Senza fare nomi. Cioè oggi non esisto, credimi, non esisto. No. Oggi i polli ruspanti non esistono più, oggi tutti stanno in un pollaio, in un ben... Infatti, sì, è capitato, li ho rispediti al mittente. Dipende, dopo avergli dato una spennatina, però almeno. Certo, bisogna vedere, bisogna provarlo il prodotto, no? Certo. Il prodotto bisogna testarlo, vederlo com'è sul mercato, e poi eventualmente lo riporto dietro con una nota: tientelo cara, continua pure a gestirtelo, perché il ragazzo non ce la può fare. Una tristezza infinita. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Trovi anche uomini che purtroppo, no, si vantano di essere grandi amatori, poi alla fine, mentre sei lì, dici: oddio, devo andare a prendere il pane, devo ritirare i vestiti in lavanderia. Ah, si vantano, sì. Prima, insomma, uno si vanta dopo, dici: guarda, ma perché forse dopo prendi atto della situazione e li castri subito. Scusa, sono proprio cretini. Prima uno le fa, uno tenere bassissimo profilo, anzi simulare, dice: scusami, sai, nella vita sono stato molto sfortunato, purtroppo questa è una cosa. Poi dopo, se anche riesci a fare una prestazione da 1 a 10 a 6, poi dire: vedi, hai provato finalmente il mio obelisco di fuoco, queste cose qua, e dopo lo puoi dire, se la vedi un po' contenta. Dirlo prima è da matti, ammesso anche che tu sia Bartolomeo con Leoni, c'è sempre un'attesa superiore probabilmente a quello che puoi dare. Sono dei parvenu. Invece si vantano a priori, ti dicono: io ti farò morire, così. Sì, cose meravigliose che poi... Ma perché dirlo prima? Se poi non accade è un casino, no? E infatti, capisci, l'asta l'asta del desiderio è alta, però poi alla fine il risultato è becero. E quindi capisci anche che non c'è... Non credo che francamente non ci sia neanche più la cultura dell'arte e dell'amore. Beh, oggi gli uomini sì, probabilmente non perdono più tanto tempo. C'è una tale offerta, diciamo la verità. Ma certo. Io vedo con la composta rassegnazione dell'anziano, che mi sembra che oggi a 30 anni, 40 anni ha una tale vastità di scelta, di mondo femminile fantastico, pronto e generoso, che non sempre ce le sognavamo veramente. Uno si attaccava con le unghie a una fidanzata perché sapeva che oltre quella poi c'era il deserto, c'era la conquista con il pugnale tra i denti. Oggi è esattamente il contrario. Vedi uscire 10 donne con 2 uomini sparuti e se li contendono e se li difendono, se li mangerebbero vivi, e questi stanno lì. Lo sai cos'è? La metafora, secondo me, è quella di quei tipo Uomini e Donne, quei programmi di Maria De Filippi, in cui vedi questi farlocconi sul trono che si possono permettere di dire ma oggi esco con te, domani, e con tutte queste adoranti che non vedono l'ora di uscirci insieme, che per un'occhiata si scioglierebbero, e vedi questi cretini che si sentono con il mondo in mano. Ma non so se è ancora un reality anche nella realtà, questo dovresti dirmelo te. Guarda, purtroppo sì. E quindi capita magari di andare in qualche locale a fare l'aperitivo, soprattutto la domenica sera. Io credo che bisognerebbe fare un'indagine sociale sulla domenica sera e le carampane che escono la domenica sera. Ma perché sera? La domenica sera, che poi il giorno dopo si lavora, è il giorno più sbagliato. Non lo so, non lo so, solo che la carampana, quindi dai 40, 50 e qualcosa in più anni, sposata o separata, che si agghinda con impalcature, tirano fuori vagina rapina, che insomma con grande fatica sfidano la forza di gravità, vanno in questi locali, fanno aperitivo e dall'altra parte della sala vedi il candelone che ciondola, no? Con il suo bicchiere in mano, lo fa girare, fa il figo, osserva con questi sguardi un po' languidi, vede la ragazzina di 20 anni anche passare, gli guarda il culo ovviamente, e poi si butta sulla carampana che poi alla fine è la mamma della ragazzina, perché a volte vedi la ragazzina con la mamma nello stesso locale e la mamma e la figlia che si sono scambiati i vestiti. È terribile. Strano, domenica, lo sai che la domenica sera l'ho notato anch'io, c'è questa affluenza nei locali. È il giorno più sbagliato, la domenica sera me ne starei accucciato dentro casa a prepararmi il giorno dopo, che è sempre faticoso il lunedì. Evidentemente il fine settimana non è stato all'altezza delle attese, quindi uno gioca l'ultima cartuccia, giocando sulla stanchezza forse, non lo so. Può essere, perché guarda, la domenica sera ci sono appunto questi teatrini un po' squallidi e anche noiosi, francamente, della carampana e del candelone che si incontrano in questi locali e fanno aperitivo. È devastante, è uno spaccato sociale che mi angoscia. Ma sono sempre poi 3 carampane almeno per un candelone, non è mai il numero pari. Esatto. Le uscite sono 6 carampane e 2 candeloni, 4 carampane e un candelone, sempre così. No. Quindi abbiamo il candelone, poi abbiamo il paracarro, quello che appoggia la donna, no? Quello che si appoggia, che fa decidere, che non ha identità, che si fa trascinare. Ecco, io divento pazza. Quando sento l'odore di paracarro, sfodero la mia dolcezza infinita che non ho e li uccido regolarmente e poi mieto vittime senza. Ma fra candelone e paracarro non c'è una via di mezzo, un'equa rappresentazione di quello che una volta poteva essere la mascolinità? Me lo sto cercando. È indefinibile, non esiste. No. Per tu esci con l'amico gay, col candelone e col paracarro. Finora non ho mai sentito parlare di qualcosa che assomiglia a un uomo. Perché probabilmente ad oggi ancora non è successo. Ma dai, c'è anche il paraculone, quello che ti affascina. No, quello vabbè, che... ma quelli qua, appena aprono la bocca gli conti tutto e dici no, non c'è il tempo. Beh, fighi, muscolati, no, abbronzati, che viaggiano, noia, girano il mondo, ti fanno che credere. Noia. Dai, però, noia. Però non, ma quello, questi non li contempli? No, assolutamente. Magari sbaglio, ma faccio selezione naturale. La selezione naturale ha un senso. Vabbè, se un giorno saprai di me che mi hanno trovato fatto a pezzi, legato sulle retaglie di un treno e con un cartello con scritto infame, traditore e spia, saprai che è l'internazionale maschile che si è vendicata su di me per aver così vilipeso quello che è apparato di facciata di quello che rimane il genere maschile. Però in realtà mi piace girare il coltello nella piaga, mi rendo conto che è un momento difficile per noi e non ho vergogna, non ho pudore di sentirmi dalla parte di tutti i candeloni, i paracarri, tutto quello che volete, figurati. Però almeno faccio parlare alle donne, non mi nascondo dietro un dito. Per noi è difficile, sai. Va bene, cara, ti abbraccio e ti saluto. Alla prossima. Ciao. Grazie, ciao, buon ciao. Viaggio. Ciao. Il treno va. Questa settimana c'è stata un'escalation nel tono dell'audiolettera dedicata alle vicende amorose che mi scrive una fedelissima e super anonima ascoltatrice, anzi farò di tutto per cercare di camuffarne il più possibile l'identità, dato che il problema che mi pone è particolarmente delicato. Però devo fare una premessa, mi pone anche in un piano imbarazzante. Io già mi trovavo poco attrezzato per dare risposte sempre arronzate, sempre improvvisate, sempre improbabili, nelle vicende che riguardano la sfera sentimentale amorosa delle mie ascoltatrici. Ma quando mi viene chiesto di entrare in una sfera ben più intima, ben più personale, con dei risvolti paraclinici, beh, io mi trovo veramente sprovvisto. Tenterò ugualmente di dare voce all'ascoltatrice e, se possibile, di immaginare una possibile risposta, anche se la risposta probabilmente se l'è già data da sola e non da poco tempo. Caro Gianluca, mi chiamo Simona, che è un nome fittizio. Ho 35 anni e vivo in Lombardia. Preferisco non dire la città. Seguo sempre il tuo programma e sono curiosa di sapere la tua opinione sulla mia storia extraconiugale che sto vivendo da un po' di tempo. Devi sapere che da quasi un anno ho una relazione con un uomo single di un anno più grande di me. Per motivi che preferisco risparmiarti riguardo alla mia situazione matrimoniale, ma che puoi immaginare, ho deciso di vivermi questa seconda relazione parallela che è nata in un incontro di lavoro. Non abbiamo possibilità di vederci spesso, lo facciamo quando possibile con una frequenza media di 2 volte al mese. Non siamo assidui, ci scriviamo pochissimo e anche al telefono più di tanto evitiamo. Il collante alla base della relazione non è né la stima né l'affetto, ma il sesso. Sì, non ho problemi ad ammetterlo. Da un anno a questa parte sto facendo il sesso più bello della mia vita. Il rapporto è puramente fisico, nessuna conoscenza o implicazione sentimentale sono entrate in gioco. Lui non lo vuole, e nemmeno io. Per questo ha funzionato bene. Ogni incontro è sempre programmato alla perfezione. Si tratta solo di aspettare l'occasione giusta. Non è facile, perché ogni volta trovare una scusa e mentire per vederlo mi costa fatica. Insomma, non è sempre sostenibile per me e c'è il rischio ogni volta di insospettire il mio compagno. Tutto complicato, sì, ma ne vale per me ampiamente la pena, perché quando lo vedo, rinasco. Lapidaria, concisa, diretta, senza metafore, senza mezzi termini. Una situazione matrimoniale che avrà sicuramente per lei un profondo valore dal punto di vista sociale e della coesione affettiva attorno al patrimonio filiale, della giusta ottemperanza dei suoi doveri quotidiani, eccetto uno, quello che una volta viene chiamato il debito coniugale. Evidentemente il debito coniugale per lei è qualcosa di molto gravoso, probabilmente è insolvente da moltissimo tempo e ha trovato la giusta alternativa, come spesso accade a molte signore, però lei lo ammette con molta tranquillità. Questa giusta e terapeutica alternativa che la rende felice e le ha fatto scoprire finalmente i confini che giudicava invalicabili del piacere sessuale avviene 2 volte al mese. Non è una grandissima media, ma se sono 2 volte che danno soddisfazione possono avere uno strascico benefico, anche se non altro nel supporto onirico al mesto e pallido dovere coniugale, e quindi per 2 volte al mese forse vale la pena di fare quello che lei fa, una sorta di mascheramento totale di questa relazione che in fondo non le porta via tanto tempo. 2 volte al mese, fosse anche un incontro d'amore con una certa consistenza, diciamo 3 ore, a dire tanto, con preliminari, incontri, aperitivo, bicchierino, cenetta, via dicendo, in fondo sono 6 ore al mese che uno può facilmente dissimulare nei propri impegni quotidiani. Queste 6 ore, probabilmente sottratte a una parrucchiera, a una estetista, a un cinema con un'amica, evidentemente per lei hanno un senso, o almeno così sembrava. Quello che al momento mi lascia un po' perplessa è che negli ultimi incontri le prestazioni da parte del mio amante sono drasticamente peggiorate, precisamente durano, sì e no, 10 minuti. Mi chiedo come sia possibile e quale sia il motivo. Lui non dice niente, ma il cambiamento per me è evidente. La mia idea è che ci sia alla base una perdita di interesse nei miei confronti, che sia una tattica per farmi passare la voglia di vederlo. Insomma, forse ha cominciato a mollare la presa, nonostante lui continui comunque a cercarmi e si mostri veramente dispiaciuto della cosa. Insomma, ti chiedo che ne pensi. Un parere maschile mi potrebbe aiutare, visto che trovo difficile e indelicato parlarne direttamente con lui, alimentando il problema. Grazie. Adesso l'ascoltatrice mi chiede che quei 2 scarni appuntamenti carnali mensili lei si aspetterebbe che fossero almeno consistenti da un punto di vista della qualità, se non nella reiterazione che lei avrebbe gradito, magari più frequente. Mi dice che oltre la barriera dei 10 minuti, il suo amante, quel drudo che la fece palpitare e le dette l'illusione di toccare con mano gli empiri più inarrivabili del piacere sessuale, adesso fa una sveltina di 10 minuti, che 10 minuti è una sveltina, perché i 10 minuti penso siano comprensivi anche dell'aspetto preliminare, della spoliazione, della preparazione del talamo e anche del post coito, quindi l'abluzione. Quindi questi 10 minuti si, secondo me, si concretizzano in un atto penetrativo che non dura più del minuto e mezzo, due, e dice per 4 minuti al mese mi vale la pena tenere in piedi questa storia, e mi domanda quale potrebbe essere il motivo. Ma non è che occorre andare da un medico. Non credo che il suo amante abbia avuto un'improvvisa disfunzione per cui la sua capacità è diminuita, si è semplicemente rotto le scatole. In fondo è diventata per lei una sorta di corrispettivo della solita riscaldata minestra coniugale, e quindi dopo tanto tempo anche questo, che era un atto trasgressivo, quasi poetico, quasi letterario, è diventato un dovere. Quindi lui è sottoposto al tristissimo onere del dovere con l'amante, che diventa qualcosa di ripetitivo rispetto al dovere coniugale, che perlomeno è sancito da una regola, da una legge, da un diritto divino. Quello con l'amante non lo obbliga nessuno. Vedrà che da qui a poco quei 10 minuti diventeranno 2 e poi scomparirà per sempre, e sarà per lei l'occasione, visto che ormai ha rotto il ghiaccio, di iniziare una nuova e probabilmente più frequente relazione.